Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. Ed eccoci qui in una stagione che non so se sta diventando mezza, intera, sta un po' passando l'estate. Poi se ci risponde mentre fa le sue spese, le sue cose, i suoi giri, il colonnello Giuliacci, cercheremo di capirlo, se veramente quest'estate se ne sta andando. Quindi siamo insieme come sempre il sabato per fare così uno sforzo di memoria ma anche di riflessione critica sulle notizie della settimana. Che cosa vi viene in mente delle cose successe in questi giorni? Ecco, forse visti tanti fatti grossi, uno in particolare, non c'è bisogno di stare a pensare chissà quanto, però non per forza le notizie che voi mi riportate, che di nuovo sottoponete all'attenzione di tutti, debbano essere quelle da prima pagina. Se avete in mente un qualche fatto che vi ha colpito e avete voglia di esprimere la vostra libera opinione, il vostro punto di vista sulla questione, sulla notizia, sono qui apposta per voi sino alle 15. Ma prima di tutto, come sempre, sapete, non posso fare a meno di un opinionista estemporaneo, come dico io, e questa volta ho invitato, attenzione signore e signori, Carlo Maria Lomartire. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, caro buongiorno Carlo. Roberta. Carlo, che tra l'altro ha appena, lui è giornalista, è stato vice direttore di Studio Aperto, se non sbaglio. Sì, esatto, Hai lavorato anche per la RAI, Media News, un sacco di cose. Carlo, dove sei? Forse troppe. Troppe cose, e ha fatto anche diverse biografie molto interessanti di grandi personaggi come Enrico Mattei, e l'ultima si intitola O Comandante, e invece una biografia che hai fatto su la figura davvero affascinante, controversa, di Achille Lauro. Sì, esatto. Per Mondadori. Per Mondadori, sì, esatto. È capitato perché ultimamente mi imbatto spesso, passando da una biografia all'altra, mi imbatto in personaggi che condividono lo stesso periodo storico, no? Lauro l'ho incrociato spesso, l'ho incrociato già con Mattei, ma soprattutto l'ho incrociato con la nelle tue lavori, con i tuoi lavori, non fisicamente, no, evidentemente, anche se probabilmente avrei anche potuto, voglio dire, da bambino, piccolo. L'ho incrociato preparando il libro su Giannini, sul fondatore dell'Uomo Qualunque, il qualunquista, sempre per Mondadori. Lauro era stato qualunquista ed è stato poi, fra l'altro, uno degli artefici del golpe, diciamo così, che ha fatto fuori Giannini, e quindi mi sono incuriosito. Anche per un periodo legato al fascismo, no? Era stato Achille Lauro, sbaglio? Beh, Achille, la vicenda di Lauro è lunghissima, perché in realtà comincia all'inizio del secolo, quando ancora diciottenne, in sostanza, viene costretto a prendere il posto del padre, che era un piccolissimo armatore, e arriva fino ai nostri giorni, perché è morto negli anni Ottanta. Quindi è stata una figura straordinaria. E per tre volte lui ha dovuto rifondare la flotta, perché già durante il fascismo, appunto, era diventato forse il più grosso armatore italiano. Poi la guerra gliel'ha distrutta e l'ha dovuta rifondare, e ha rifondato la sua flotta tre volte sostanzialmente. Volitivo, insomma, intraprendente, uno che non si arrendeva, sì, sicuramente. Sia un intraprendente, che fosse, cioè, per me i miei personaggi sembrano sempre vivi e presenti. No, un intraprendente sicuramente, ma è un personaggio straordinario, perché al di là delle vicende imprenditoriali, diciamo, politiche, sindaco anche di che Napoli, sono notevolissime, è stato un contestatissimo sindaco di Napoli. Era anche un uomo di incredibile originalità, diciamo così, con una, ad esempio, una attività sessuale leggendaria. Più del Presidente del Consiglio, in questo caso. Guardi, francamente, siccome, voglio dire, sono un giornalista di mente, se ho paura di fare i confronti di questo genere. Secondo me sì, ma forse lui se ne prenderebbe a male. Allora, come non detto, poi ognuno naturalmente... No, girava la voce addirittura che avesse bisogno come minimo di 3 rapporti al giorno. Nel suo ufficio c'era un ingresso laterale dal quale le sue amiche entravano e uscivano, e la cosa si sbrigava naturalmente. Pochi minuti, con grandi soddisfazioni delle amiche sicuramente. Immagino, però. E pare appunto che fosse insaziabile questo fino alla fine. Vabbè. Però sai, voglio dire, queste qui sono, come dire, leggende metropolitane / napoletane, quindi da per prendere cui vai a capire con le pinze sicuramente. Benissimo, allora, dopo questa sintesi piuttosto colorita, colorata e interessante del libro di Carlo Maria Lo Martire, O Comandante, cioè la biografia di Achille Lauro, direi di andare sui fatti della settimana. Quindi concentriamoci, dicevo, sulle tante notizie. Ovviamente poi, come sempre, vi faccio una sintesi, ecco, per riportare alla vostra attenzione alcune delle principali, ma poi scavate un po' nella vostra memoria, nelle vostre impressioni di questa settimana. E direi, come sempre, di non farci mancare anche un punto di vista, diciamo così, extraterrestre. Riflessioni da Marte. E sbirciamo dunque da quassù, anche questa volta, questo povero pianeta sconquassato da tempo immemore da guerre insensate, come se mai ve ne fosse stata una sensata, dove gli uomini non si stancano mai, dico mai, mai, da millenni, di ammazzare altri uomini, oppure, vabbè, donne, bambini naturalmente, e quando non sono in una guerra conclamata, qualcuno ripiega sulla propria moglie o ex moglie, fidanzata o ex fidanzata, un gay, mal che vada, una figlia, ecco, diciamo, per poi dover sentire magari una madre, in questo caso di origine marocchina, che in quanto donna è cosciente di appartenere ovviamente a una categoria subumana, che dichiara: perdono, mio marito ha ammazzato la figlia perché lei sbagliava, ma le voleva bene. Eh sì, le voleva tanto bene, un bene da morire. E di fronte a tanta inaudita bruttura, qualcuno opta per la bellezza, quantomeno insomma quella catodica, quella del tubo catodico, e preferisce a Enei di Bruno Vespa e alla versione più che speciale del Presidente del Consiglio gli occhi tenebrosi e il fisico mozzafiato di Gabriel Garco, insomma, un gran bel pezzo di ragazzo fulgido nella sua ultima fiction, e quanto a bellezza, come dargli torto, insomma. Ed è proprio vero che non ci sono più le mezze stagioni, che molte cose sono inesorabilmente cambiate. Prima, per esempio, in fondo agli abissi si trovavano galeoni con forzieri pieni di monete d'oro. Ora si scoprono, in specifico in Calabria, 20.000 fusti tossici sotto il mare. E a proposito di scoperte, a soli 500 anni luce dalla Terra si è scoperto in questi giorni Corot, si chiama Corot, una specie di pianeta gemello della Terra, potrebbe essere quasi uguale. Come a dire che, mal che vada, una volta fatto a pezzi il pianeta Terra, c'è sempre una seconda occasione per fare naturalmente il bis. Ecco cosa mi dimentico sempre, di dirvi il numero di telefono naturalmente per i vostri interventi: 800 24 00 24, dice sì Carmelo Lauricella, che ringrazio e saluto alla parte tecnica e mi seguirà fino alle 15. Il numero verde 800 24 00 24 per dire che cosa in particolare vi ha colpito questa settimana e su cosa avete voglia di esprimere liberamente la vostra opinione. Prima però, visto che sei capace di raccontare le cose in modo così curioso e divertente, Carlo Lo Martire, ti volevo chiedere: c'è un qualche segno, secondo te, personalmente, che hanno dato, che insomma, in qualche modo conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Se dovessi dire. La posso buttare in politica? In politica, naturalmente, mi sembra una cosa interessante. Ma come forse il fatto che perfino in Italia, che ha una così lunga e non sempre fortunata tradizione di multipartitismo, si vada verso un bipolarismo e bipartitismo tendenziale, diciamo così, e forse può essere anche inconsciamente dovuto al fatto che, non essendoci più le mezze stagioni, la gente si sente costretta a scegliere l'inverno o l'estate. Esatto. Carina, può essere un effetto inconscio e collaterale, diciamo così. Beh, mi sembra un'interpretazione molto interessante di queste, delle stagioni e connessioni con la politica. Allora, 800 24 00 24. Adesso vi riassumo molto brevemente alcune delle notizie e poi vorrei ributtarla allora tra poco in politica con Carlo Lo Martire, visto che faceva accenno anche in questo caso così divertente. Beh, naturalmente i militari uccisi in Afghanistan, la strage di Kabul, vi ricordo che domani dovrebbero essere rimpatriate le salme e poi lunedì ci saranno i funerali di Stato e il giorno di lutto nazionale. il presidente Napolitano, anche il governo, l'ha confermato, la missione va avanti. Poi all'estero lo scudo antimissile, Obama annuncia che rinuncia a questo scudo che voleva Bush e che tanto aveva fatto arrabbiare la Russia, no? Perché doveva essere collocato in alcuni paesi dell'est, puntato verso la Russia, come per esempio la Repubblica Ceca. Allora da parte sua anche la Russia ha detto vabbè, noi rinunciamo allora a posizionare i nostri missili, e insomma mi sembra una cosa positiva. Poi, per tornare invece alle notizie italiane, a Bari sapete che è stato fermato il famigerato, famoso imprenditore Tarantini per spaccio di droga e pericolo di fuga. Sapete, l'imprenditore al centro dell'inchiesta barese su sanità, tangenti, escort, eccetera. Poi le polemiche sullo speciale di Porta a Porta che ha fatto rinviare Ballarò, lo speciale sull'Abruzzo che però è stato battuto poi della fiction di Gabriel Garco. Insomma, queste cose qui. La ragazza marocchina uccisa dal padre vicino Pordenone perché lui non approvava il suo amore con un ragazzo italiano. E poi le polemiche anche su Lodo Alfano e la dichiarazione, insomma, dell'avvocatura dello Stato che ha detto se fosse bocciato il Lodo Alfano, che è quello che tra poco, in questi giorni, dovrebbe essere al vaglio della Corte Costituzionale per valutare la legittimità di questa legge, quello che prevede la sospensione dei processi per le quattro maggiori cariche dello Stato. Bene, l'avvocatura dello Stato ha detto che se fosse bocciata questa legge, quindi anche il Presidente del Consiglio fosse costretto a dover rispondere in tribunale di qualcosa, questo minerebbe il buon risultato del suo governo e porterebbe dei danni irreparabili, la continuità. Sì. Poi sull'economia sembra che vada un po' meglio, però l'OCSE mette in guardia sulla disoccupazione, che anche in Italia continua a essere molto preoccupante. Così, una nota di colore, non solo, sapete che è stato liberato l'iracheno che aveva tirato le scarpe a Bush ed è stato accolto nel suo paese con grandi feste, con onore, come un eroe. Il falso incidente in cui è stato, presunto incidente in cui è stato coinvolto Briatore, che ha lasciato così il team del Renault. Ci sono già diverse ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Direi, Carlo, di cominciare a sentire ovviamente, certo, le loro voci, visto che ci siamo già presi un po' di tempo, soprattutto io. Maurizio da Firenze. Ciao Roberta. Ciao Maurizio. Sono Maurizio da Firenze. Ascolta, io volevo parlare della ragazza marocchina. Sì. Ieri sera ho dovuto spiegare a mia figlia, a 18 anni, non riuscivo a trovare le parole. Quello che mi dà più noia è che queste persone non se la rifanno eventualmente con l'uomo, ma con la donna. E questo mi disturba. Mi disturba perché se mia figlia stesse con un ragazzo, un uomo di 31 anni, mi darebbe un po' noia, però riuscirei forse ad accettarla, ma ai limiti me la potrei rifare con lui. Ma in che modo te la rifaresti, Maurizio, con lui? No. Non mi fraintendere, non è che me la potrei rifare, potrei parlare, cercare di capire perché un uomo di 31 anni va con una ragazza, a prescindere dal fatto che mia figlia è una ragazza di 18 anni, sì, però io la vedo ancora una ragazzina, ecco. Però perché se la rifanno sempre con le donne? Poi la madre che giustifica il marito. Beh, è tipico delle donne, soprattutto di certe culture, lo è stato anche in Italia per qualche tempo. Ma non si può. Ma scherziamo davvero? Naturalmente. È una cosa ma veramente mi inquieta, ecco. Riuscire a ammazzare mia figlia, ma si scherza davvero? Ai limite, guarda, la voglio buttare lì, ammazzo lui, nell'eventualità. diciamo Maurizio, onor del vero, che stava facendo fuori anche lui e poi lui è riuscito a scappare perché mi pare che ci fossero delle persone, quindi il padre, l'assassino, diciamo, si è spaventato. E questa è una cosa terribile, e ci vogliono condanne pesantissime per far capire che noi non accettiamo più, non solo che venga importata della sottocultura integralista, maschilista, sino a questi estremi, ma non vogliamo tornare indietro, perché se ci pensiamo, il delitto d'onore e cose simili, anche in Italia fino a qualche tempo fa, c'erano e mi pare che siano state considerate appunto illegittime, illegali, forse negli anni 70, non è passato moltissimo tempo, quindi soprattutto non vogliamo tornare indietro a questa barbarie, a questo integralismo patriarcale che è stato talebano in Italia per diverso tempo anche da noi, che non vogliamo ritorni, insomma, uscito dalla finestra ritorni dalla porta o viceversa. Dicevi, ma infatti, Carlo? Sai, Roberta, no, dicevo che in realtà il fatto più lontano dalla nostra cultura di questa vicenda non è tanto l'assassinio della figlia, che come ricordavi tu stessa fino a poco tempo fa poteva accadere anche in Italia, cioè, che, e ancora succede con le mogli, ex mogli, fidanzate, che in forme diverse con le mogli, tre volte alla settimana. Il fatto più lontano dalla nostra cultura è invece il comportamento della madre. Ecco, questo in Italia sarebbe molto molto molto più difficile, per fortuna, certo, in ogni caso. E invece è questo il sintomo di una cultura molto lontana dalla nostra, cioè questa donna che è costretta in sostanza a, probabilmente anche contro i propri sentimenti, a giustificare in qualche modo il marito, perché come si diceva dalle riflessioni da Marte, diceva l'extraterrestre, che appunto le donne, soprattutto nelle culture più arretrate, siccome pesano soprattutto sulle donne le culture arretrate, come sempre, già le culture più moderne lo fanno, si sentono delle categorie quasi subumane, quindi giustificano anche la violenza su se stesse, sulle loro discendenti, sulle figlie, sulle parenti e così via, come avviene. È una dipendenza totale, quindi. Certo, appunto dalla figura maschile, dall'autorità maschile. E come ricordava giustamente Carlo Marti, lo dicevamo, in Italia davvero, ultima ricerca di un'associazione femminile, ma anche EURES, una volta all'anno più o meno lo fa, in Italia ogni ci sono tre delitti alla settimana che riguardano gli uomini sulle donne, con mogli, ex mogli, fidanzate, ex fidanzate. Quindi purtroppo ci scandalizziamo davanti a una cosa del genere quando succede nei confronti di una figlia, ma in Italia anche gli assassini nei confronti delle familiari, delle donne, della famiglia, sono all'ordine del giorno, ed è una cosa che continua a passare così inosservata come fosse un fatto fisiologico, ed è semplicemente scandaloso. E naturalmente quello che citava l'ascoltatore, che ringrazio, forse non ho salutato, ma scusatemi se a volte sono un po' di fretta, Maurizio da Firenze, lo ringrazio molto di essere ritornato su questa notizia. Ne stavamo parlando animatamente io e Carlo Lomartire adesso, durante la viabilità, perché è un fatto ovviamente sul quale non si possono dire due parole e via. Sempre comunque le notizie di qualsiasi tipo, che siano però legate a questa settimana, sentiamo sempre il numero verde 800 24 00 24, visto che i fatti sono moltissimi, potete veramente pescare ad ampie mani. Carmine da Napoli, già sento che ha la radio a tutto volume. Carmine, puoi spegnerla per favore, abbassare? Pronto? Carmine? Pronto? Sì. Carmine, devi proprio spegnere la radio. Sì, Roberto, buongiorno. Buongiorno, caro Carmine. Sono arcicontenta della trasmissione, siete stupendi. Grazie. Una gentilezza comune. Grazie. Vengo dunque, se mi è consentito, fare due piccoli interventi. Certamente. Lodo Alfano, che lo volevi fare da tempo, che non sono mai riuscito ad essere chiamato. Lodo Alfano? Un altro sulle case dell'Abruzzo. Sì. Molto piccolo. Sì. Per quanto riguarda il Lodo Alfano, vorrei sapere una cosa, che si attaccano tanto sul Lodo Alfano o meno. Vorrei sapere una cosa dal giudice Gandus, che è un iscritto ai partiti, secondo me un sinistrato di prima categoria. Della giudice milanese. Il Presidente del Consiglio, sì, si dimette, cade il governo, si va all'elezione, si fa il processo e viene assolto. Chi è che ripaga tutti questi danni? Perché non attendere prima tutto questo e poi fare il Lodo Alfano e condannarlo, se viene condannata? Ma se viene assolto, tutti questi danni che va incontro allo Stato, chi li paga? Il giudice? Ah sì, però il problema era un altro, quello del Lodo Alfano, comunque, Carmine, era che sospende possibile processabilità, diciamo, per le quattro cariche dello Stato. Se il Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, della Camera e del Senato fossero in qualche modo coinvolti in un qualche fatto che richiederebbe, insomma, di andare a processare. Se mi aggiungo a questo, vuol dire che io vorrei che viene slittato, perché c'è bisogno di avere il governo, specialmente in queste condizioni che ci troviamo oggi. Fare un altro governo significherebbe non lo so che cosa per lo Stato italiano. Questo secondo l'avvocatura dello Stato, qualcuno dice che davanti alla legge bisogna essere tutti uguali, comunque sono punti di vista, e grazie del tuo, Carmine. Giustissimo. Poi per quanto riguarda le case dei terremotati, sì, stamattina leggevo un giornale, non faccio il nome, c'erano due lettere. Puoi farlo, posso farlo? Il giornale, ecco, che c'è sotto mano, che due lettere di due persone terremotate, una è l'Umbria e un'altra di Avellino, sì, che si sono attaccate contro Bersani, che l'altro giorno a Ballarò diceva delle cose non vere, e questi qua gliel'hanno rinfacciato stamattina sul giornale. Vorrei sapere, questi signori della sinistra che fanno tante cose loro, che hanno fatto bene, siamo ancora nelle tende e si lamenta che 120 giorni sono troppo, oppure che cosa ci avete dato e via di seguito, perlomeno questi signori che li vi darci contento. Poi c'è qualcuno che si lamenta, che secondo me, pur avendo la casa, sarà di sinistra e non accetto quelle che fate terremotate. Io lavoro in una macelleria, cioè perdo il tempo perché sono un pensionato. No, non tanta gente c'è la social card, vedere quando vengono come sono contenti. Grazie a Berlusconi invece loro dicono che hanno fatto carità a questi signori, e queste persone vengono a comprare 15-20-30 euro di carne di tanto in tanto, che si guardano gli scatoli la social card, in effetti, sì. Ah, compra una carne a te con la social card, hai detto Carmine? Sì. Ah, va bene. Grazie Carmine, che tempo fa a Napoli? Oggi c'è un sole terribile. Ah, terribile, ma tienitelo finché c'è. Qui a Milano è pallido come negli ultimi giorni. C'è un bel sole. Terribile e difficile di questa stagione, mezza stagione. Grazie Carmine da Napoli. Carlo Lobartire, volevi fare qualche commento? No, beh, innanzitutto volevo ricordare che in effetti il primo governo Berlusconi, quello del 94, cadde di fatto perché a Berlusconi fu presentata una informazione di garanzia durante il G7, durante ma non fu Bossi che fece cadere il governo? Sì, e poi Bossi, certo, di conseguenza. Quindi voglio dire, per un reato dal quale poi fu assolto. Ora, io non so, francamente, se Lodo Alfano che esiste in forme diverse, ma anche in altri paesi, sopravviverà. Certo però che, voglio dire, a prescindere dal caso attuale del quale stiamo parlando, una qualche garanzia alle alte cariche dello Stato che la loro attività non venga bruscamente interrotta da un'azione giudiziaria che poi magari, come diceva l'ascoltatore Carmine, può non aver seguito, non mi sembra fuori dal mondo, ecco. Mi sembra un ragionamento. Sembra una garanzia, sì, giusta, anche perché il procedimento non so se è giusta, però voglio dire vale la pena di tenerle in considerazione, anche perché poi il procedimento non viene soppresso, viene sospeso, quindi in realtà il processo dopo non va in prescrizione, esatto. 800 24 00 24, sempre Roberta Giordano con voi, e chi ha parlato fino a pochissimo fa è Carlo Maria Lomartire, che ha scritto, appena pubblicato con Mondadori, la biografia di Achille Lauro, o comandante. Vediamo chi c'è adesso al numero verde. C'è Marco dalla provincia di Campobasso. Sì. Oh Marco, sono contenta, si sente così poco il Molise, quindi sono contenta, sì, di sapere. Infatti io sono un ascoltatore che ascolta sempre la radio, mi piace tantissimo, è perché riguardano molti temi, sia ambientali che politici che altro. Sì. Volevo dire, riguardo Lodo Alfano, si stava parlando adesso. Sì. Per me, come diceva esattamente anche il vostro... Carlo Lomartire, sì. Sì, in un certo senso bisogna regolare per quanto riguarda un certo modo di gestire la cosa, però per quanto riguarda questo governo, per me è una cosa sbagliatissima, visto che abbiamo un premier, che così si lascia chiamare, che sta affondando l'Italia nel vero senso della parola, sta affondando in tutti i sensi. Io sono un familiare anche di un terremotato dell'Aquila, sono stati qui in Molise 5 mesi. Lo Stato che dice che è stato rappresentato al massimo, io sono stato lì in Abruzzo il giorno dopo del 6 aprile e ho assistito tutte le varie assistenze che sono state fatte ai soccorsi, ho visto proprio un volontariato di quelli eccezionali, certo. Cioè nel senso che sono stati volontari che veramente non hanno avuto nessuna retribuzione, che si sono dati da fare, ma molte persone non hanno fatto proprio nulla, si sono guardati in faccia. In pieno sisma, io sono stato lì una sera con il terreno che mi tremava sotto i piedi e loro si guardavano in faccia senza nessun problema. Ma questi poi che si guardavano in faccia, che era qualcuno preposto a intervenire o persone comuni? No, un po' tutto, in generale, parliamo di Croce Rossa, Protezione Civile, un po' tutto, stavamo nella tendopoli di Piazza d'Armi e quindi si stava lì attendendo l'evolversi della situazione, era un momento proprio come se tutti quanti si guardavano in faccia, dice che dobbiamo fare, non c'è nulla da andare avanti, cioè io capisco perché l'emergenza fa paura. Sia i terremotati che hanno ricevuto la scossa forte e sia le persone che sono andate lì ad aiutare. Ma non so chi era presente, però parlato molto bene di Protezione Civile. Tutta questa però... cosa che diciamo che lo Stato c'è, io non l'ho visto proprio in quei giorni che c'è stato di emergenza. Il terremoto. Ho capito Marco. Volevi aggiungere qualcosa brevissimamente? Sì, volevo dire, poi per quanto riguarda sempre il fatto della ricostruzione, che del design, questa parola mi ha colpito tantissimo, questa parola che è detta dal Presidente del Consiglio, design. Che c'è il design, cioè Io, secondo me, una persona non c'ha bisogno delle comodità eccezionali, c'ha bisogno della ricostruzione immediata, di un qualcosa che venga fatta subito, oltre al fatto che non vorrei dire che sono stato informato dal fatto che intorno al 6 aprile, cioè in periodo del terremoto, la protezione civile, lo Stato già sa che succede qualcosa di catastrofico, avevano preparato solamente 6.000 bare e con tutti i sacchi che non so ora al momento dove stanno. Marco, questo è lo Stato che organizza proprio nel migliore dei modi. Ti ringrazio, grazie, salutami Campobasso e la provincia, visto che appunto magari si fanno sentire poco. Adesso sul fatto che potesse succedere o no la disgrazia se ne è parlato già tanto prima, si è detto che al di là delle previsioni, che non si può avere la sfera di cristallo, però effettivamente le scosse andavano avanti da gennaio sino ad aprile, da dicembre sino ad aprile, quindi forse un po' più di lungimiranza, però adesso non ritorniamo su questo. Questo è il punto di vista di Marco, e sentirei sempre il numero verde 800 24 00 24. Vi ripeto, se avete acceso adesso potete ritornare liberamente con le vostre opinioni sui fatti della settimana. C'è Hicham, pronuncio bene, o Hicham, dalla provincia di Milano. Hicham, sì. Tutte le volte che chiamo si sempre in discussione, sì, o Hicham o Hicham. Hicham, beh, io non ti ho mai sentito. Siamo dalle Mercate. Sì, Hicham, quindi di dove sei? Io sono di origine marocchina. Sì. Niente, io vorrei fare un intervento per quanto riguarda la ragazza. Posso chiederti da quanto tempo sei in Italia, Hicham? Circa 20 anni. Beh, veramente tanto allora. Di pure, quindi, qual è il tuo pensiero su questo fattaccio? No, niente, il mio pensiero è abbastanza semplice. Adesso vedo che si sollevano tante bandiere di guerra, di odio verso la religione, perché si sta dando un'interpretazione sbagliata a questo fatto di questo signore che abbia eseguito un atto barbarico su sua figlia. L'unica persona da imputare qui è la persona, è il padre, certo. Punto. Non c'entra assolutamente niente la religione, perché siccome io sono di cultura, non sono praticante, non sono integralista, ma le origini sono quelle, le basi sono quelle. Nell'Islam nessuno ha il diritto o il potere di uccidere nemmeno una mosca o un moncerino, di togliere la vita nemmeno a un moncerino. Per cui non imputiamo, non buttiamo, non diamo sempre la causa alla religione, perché è assolutamente sbagliato. Forse l'interpretazione integralista della religione, questo? Ma non è neanche quello, perché alla fine se uno non riesce a convincere nemmeno un altro suo rivale, un altro suo, come lo chiamano, gli infedeli o i miscredenti, se uno non riesce a convincere, la legge coranica, l'Islam, dice che proprio bisogna stare in pace, lui con la sua religione, io con la mia religione, uno di fianco all'altro, punto. Non si va alla guerra, non si va a togliere la vita, non si va a fare niente, nulla, punto. Bisogna vivere in pace, questo è il vero significato della religione islamica. Hicham, ti ringrazio, speriamo che sia così. In fondo forse c'è più, al di là delle religioni, proprio una cultura patriarcale macista durissima a morire, visto che anche nei paesi occidentali, visto che anche in Italia continua ad esserci. Non mi stanco di ripetervi che secondo rapporti Eures e le ricerche delle associazioni per la salvaguardia, insomma, delle donne, si continua a ripetere che ci sono 3 delitti alla settimana, 3 donne che muoiono per mano di uomini che sono mariti o ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, insomma, con questo, diciamo, atteggiamento proprietario, ecco, della donna, del corpo della donna. Abbiamo, prima dell'interruzione, poi c'è Roberta D'Ancona, numero verde 800 24 00 24. Abbiamo 7 secondi prima di una pausa. Carlo Lomartire, volevi fare un breve commento? Sì, ma brevissimamente. A me sembra che questa, io sono d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore Hicham, ma mi pare che questa volta sia stata tirata in ballo meno la religione, meno che in altri casi. Qui è veramente un problema di cultura generale, di provenienza, come dire, anche sociale, ecco, più che etnica. Certo, di questo fa parte anche una certa visione della religione, ma mi pare che in questo caso si sia insistito puntato un po' meno, meno, si sia insistito meno sul fattore religioso. D'altra parte è anche vero, insomma, che la religione, in tutte le religioni, sono elemento costitutivo della cultura di una comunità. Certo. E quindi, voglio dire, è difficile anche stabilire una separazione netta. Ed eccoci qui sempre Roberta Giordano con voi. Qui in studio con me c'è Carlo Maria Lomartire, giornalista che ha appena pubblicato O Comandante, biografia di Achille Lauro. Con Mondadori, e ci siete voi, le vostre voci, i vostri pensieri, le vostre libere opinioni sulle notizie della settimana. Continuiamo ad andare avanti quindi sui fatti di questi giorni. 800 24 00 24 il numero per voi. Dicevamo prima Roberta d'Ancona, e quindi Roberta a te la parola. Ok, buonasera. Buonasera. Io volevo dire a proposito delle polemiche che ci sono state sulla ricostruzione o sulla, sulle opere previste che magari non sono state ancora, non sono in stato di avanzamento dei lavori in Abruzzo. Però quello che voglio dire è che secondo me è impossibile che qualcuno abbia pensato che in così poco tempo potevano essere eseguiti questi lavori, anche perché dietro c'è una programmazione e ci sono dei piani di ricostruzione, altrimenti si rischierebbe di trovare un nuovo paesaggio ma che non risponda alle esigenze poi della popolazione. E io ho vissuto il terremoto ad Ancona del 72, e quindi anche se non ci sono stati morti, però è durato molto tempo, è durato degli anni sono durate queste scosse, e comunque c'è stata una ricostruzione totale del centro storico. E a parte che ci sono state da parte, cioè a livello nazionale gli aiuti non sono stati tantissimi, è stata più l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ad eseguire le opere, e diciamo che comunque c'è stata una buona amministrazione, sono state fatte buone opere di intervento sia nel centro storico che nella ricostruzione in periferia. Per cui quello che dico è che comunque non credo giusto polemizzare più di tanto, perché chi non ha vissuto queste situazioni non si rende conto che effettivamente non è possibile avere nell'immediato tutto quello che si desidererebbe avere. Ecco, quindi non trovo giuste le polemiche che si stanno facendo. Grazie, grazie Roberta. Mi dici solo una cosa, Roberta? Sì. Passo da una cosa all'altra, perché poi per associazione di idee. Tu mi hai detto buonasera, so che più o meno da Firenze in giù si dice buonasera già dopo pranzo, perché sì. Siamo in pieno giorno, a me viene da dire buongiorno, non so, a te sì. Carlo Martini viene da dire buongiorno? Sì, prima del tramonto. Ecco. Buon pomeriggio non lo dice nessuno più. No, però. Io sono vissuta da diversi anni a Firenze, quindi mi ricordo che si dice, poi si continua a dire in Toscana, da lì in giù, buonasera, passato l'ora di pranzo. Io voglio tenere il giorno più acceso possibile finché dura, però mi piace anche questa cosa, se tu dici più spontaneamente buonasera ti rispondo buonasera allora Roberta. Ma tutto sommato è giusto e corretto, giusto. Perché in realtà ci aspetta la ci sera aspetta ormai, la sera, insomma, ormai il giorno volge al declino. Grazie Roberta. E invece sempre al numero verde 800 24 00 24 c'è Luciana dalla provincia di Roma, quindi saltiamo adesso nel Lazio invece. Luciana. Pronto? Eccoci. Sì, buongiorno. Buongiorno a te, ecco, buongiorno, nonostante siamo... Prego, Luciana, che cosa ci vuoi raccontare? Scusa, vuoi tornare? Qual è la notizia? Io punterei, chiamo per l'episodio della ragazza marocchina. Sì. E a me mi ha colpito il fatto che il padre abbia detto io sono stato costretto ad ucciderla, e quindi puntare, diciamo, l'attenzione sulla... la comunità quale mandante di questo omicidio, che in pratica più che un delitto di onore è un delitto per l'appartenenza, cioè se la ragazza non si comporta in modo conforme tu non sei più riconosciuto come parte della nostra comunità. Sì, sì, è molto è così. Sì, probabile questa cosa, Luciana. Mi scusi, è molto disturbato. Sì, sì, sento che frigge un po' il telefono. Tu non stai friggendo, Luciana, qualcosa in cucina, no? Pronto? Sì, pronto. Pronto, dicevo non proverò a richiamare. E che dice Carmelo? La teniamo così? No, Luci... va bene, ogni tanto insomma qualche e quindi, piccola... E dunque, per me è importante, diciamo, in questa tragedia, tutto il contributo che ha dato un'intera comunità a fare sì che, diciamo, questa persona, per non essere, diciamo, invisa alle persone con le quali ha contatti, rapporti, quindi sopravvivenza, e praticamente ha messo completamente da parte i propri sentimenti. la figlia è diventata un ostacolo invece che essere, diciamo, la persona da aiutare, o comunque anche il ragazzo ha fatto i suoi errori, ha pensato che la ragazza fosse un individuo mentre invece era parte di una collettività ancora. Beh, sai, con l'amore ci si illude sempre a qualsiasi livello, per quello non sta a pensare, pensa di superare qualsiasi cosa, e forse in questo caso è anche meglio che uno ci provi e ne sia convinto, altrimenti se accettiamo anche certe cose probabilmente non aveva neanche subdorato più di tanto, anche se il padre ha detto così spontaneamente a un carabiniere, cioè erano più giorni che ci provavo, e quindi poi è andato dal suo punto di vista a buon fine, insomma. Luciana, però un'analisi molto interessante la tua, e mi sembra anche fondata. Che dici, Carlo? Sì, è un'analisi interessante anche perché, come dire, rende meno facile l'uso del termine multiculturalismo, del quale si fa un abuso, francamente, mi pare, ultimamente. Sì. Perché multiculturalismo, ma molti chi? Voglio dire, sono obbligato ad accettare qualsiasi tipo di cultura, di visione del mondo, di concezione della vita con la quale io entro in contatto? Questo è un problema serio, perché francamente, personalmente, non sono disposto ad accettare certe visioni del mondo e certe culture con le quali mi capita di misurarmi. Quindi, quando si parla di multiculturalismo, bisognerebbe dire, semmai, che ne so, dialogo, ecco, forse dialogo. Sì, questo sì, cioè all'interno di una stessa cornice di regole condivisibili che devono regolamentare la convivenza civile, quindi fuori da quelle non si può andare, poi uno può avere gusti diversi su alcune cose, può avere una tradizione. Voi avete sentito parlare la madre di questa povera ragazza? Questa praticamente non conosce l'italiano, sono in Italia da più di 10 anni, se non ricordo male. Beh, magari chiusa in casa, anche lei che frequenta poco, ha poco modo di relazionare con gli altri, col mondo. Quindi, esterno, si immagina appunto che sia. Poi a volte, ma diciamo anche per quanto riguarda l'Italia, no? O gli altri paesi, ma noi siamo in Italia, parliamo in Italia. Politici dell'uno e dell'altro fronte, in realtà, spesso dicono: questa è una cultura, bisogna accettare, anche la gente comune, bisogna accettare una cultura diversa. Allora, finché appunto ci sono delle regole condivise, come per esempio i diritti individuali, i diritti delle donne che devono essere assolutamente paritari a quelli degli uomini, pari dignità di diritti e di doveri, ecco, una volta che ci sono dei punti fermi, sul resto si può vedere, ma non si può mascherare da cultura altra qualcosa di intollerabile, ovviamente. Sempre il numero verde 800 24 00 24. Prima di sentire Mario da Verona, io volevo sottoporti un'altra cosa, e anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, Carlo Lomartine. Allora, continuano questi scontri politici forti, no? Con delle parole piuttosto pesanti, insomma, abbiamo assistito ultimamente a quello tra Berlusconi e Fini, però poi c'era ieri Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori, che ha detto Berlusconi farà la fine di Saddam. Intendeva soprattutto come la statua, sì, che è caduta, infatti, col dito alzato. Poi oggi c'è Brunetta sull'altro fronte che dice: sinistra parassitaria vada a morire ammazzata. Insomma, che dici? A proprio di non ci sono più mezze stagioni. Questo secondo me è un brutto effetto collaterale della strada italiana al bipolarismo o al bipartitismo. Che dicevi all'inizio. Esatto, insomma, di quello che dicevamo all'inizio. Cioè, non essendo noi ancora abituati ad avere due schieramenti che si confrontano, la stiamo trasformando in una piccola guerra civile verbale. Ecco. D'altra parte, però, non ci facciamo neanche la testa, perché in Gran Bretagna, ad esempio, se ne dicono di tutti i colori, c'è questo famoso episodio della deputata laburista che, rivolgendosi a Churchill, gli dice al massimo della rabbia e degli spezzi, dice: Sir Winston, se fossi sua moglie le metterei la stricnina nel caffè. Già allora, quindi esatto. Churchill. Churchill, sì, solo che Churchill rispose: e se io fossi suo marito lo berrei. Pur di liberarmi. Quindi voglio dire, se ne dicevano di tutti i colori anche in Gran Bretagna, che è il paese del bipolarismo. Sì, forse noi eravamo un pochino meno abituati, c'era forse più sottobosco, si dicevano le cose, sì. Non lo so, comunque adesso proprio si sparano così in piena libertà. Tra pochissimo, attenzione, capiremo insomma se quest'estate volge al termine oppure no, ma dicevo, il numero verde 800 24 00 24, vorrei continuare a sentire le opinioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Adesso tocca a Mario da Verona. Sentiamo Mario, che cosa hai da dire? Sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie, perché si alleggerite la giornata di lavoro, ecco. Grazie. Che lavoro fai? Posso chiedertelo, Mario? Io guido gli autobus, i mezzi pubblici. E sei particolarmente stressato? Oddio, fortunatamente ho un carattere che supporta abbastanza, ecco, quindi non mi pesa più di tanto. Poi si vede tanta gente, insomma, è un modo per socializzare. Perché c'era una ricerca americana proprio di questa settimana che diceva che un lavoratore su quattro è stressato e molti sono anche esauriti, e soprattutto le donne, insomma, per le condizioni sempre più difficili di carico di lavoro, di precarietà. Comunque, insomma, tu mi sembra che la prendi positivamente. Quindi, Mario... No, beh, ma sicuramente negli ultimi anni... la situazione si è aggravata, per carità, però cerco di resistere, dai. Bene, Mario, tieni duro allora. Che con cosa... l'ultimo intervento che avete fatto, avete un po' introdotto il personaggio del quale voglio parlare, perché è il ministro Brunetta. Ecco, volevo parlare di quella sua esternazione in riguardo alla cultura e lo spettacolo. Che forse della scorsa settimana o dell'inizio settimana, sì. Sì, ecco, intanto vorrei dire... che il tono che ha usato veramente, secondo me, dimostra un'arroganza, una presunzione che una figura istituzionale come lui non dovrebbe avere. Perdonami Mario, sintetizzo brevissimamente per chi non fosse a conoscenza di questo fatto. Nel mondo dello spettacolo da tanto tempo si dice, insomma, che non ci sono i fondi per il teatro, per il cinema, che in questo modo si uccide la cultura, e Brunetta ha fatto una distinzione dicendo la cultura è una cosa, perché è l'istruzione, la scuola, la scienza, la ricerca, lo spettacolo è una cosa per divertirsi, quindi se ci sono i soldi bene, se no, ecco, sintetizzando, così estremizzando, Mario. No, ma per carità... Se l'avesse detto in questi termini sarebbe stato più che accettabile. Mi sembra che l'abbia colorito in modo differente, ecco, è molto arrogante. Però ecco, il concetto che volevo dire, mi stupisce che il giorno dopo il presidente del governo del quale fa parte ha fatto uno show mediatico che non ha nulla a che vedere con la politica. Quindi, insomma, mi sembra che ci sia veramente... o meglio, non ci sia coerenza, ecco. Cioè dici c'è una commistione anche lì tra spettacolo, informazione, politica, eccetera, allora perché lui distingue, questo vorresti dire, Mario? Sì, perché la cultura, a mio parere, è spettacolo, perché i vari film, le compagnie teatrali fanno cultura, quindi la sua è una posizione personalissima e va ad alimentare una cosa che io contesto da anni. Cioè, questo modo di ragionare non fa altro che rimarcare la differenza fra coloro che credono di essere nel giusto e coloro che invece sono il male, ecco. Non va bene, perché io, pur essendo di una posizione politica ben definita, credo che anche l'altra parte abbia delle idee valide e quindi è giusto che vengano prese in considerazione. Mi danno l'impressione in questo modo di alimentare questa divisione fra chi sta da un lato e chi dall'altro. Mario, grazie. Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro allora per tutta la giornata. Ciao Mario. Eccoci sempre insieme, Roberta Giordano, con voi. Intanto ringrazio anche la nostra Valeria Coffaro, che è lì, che come la DHL, dico io, prende telefonate a destra, ma è lei che riesce a convogliare tutte queste vostre opinioni alle mie orecchie e a quelle di Carlo Marialo Martire, che è qui giornalista, scrittore, autore di O Comandante, la biografia di Achille Lauro. Dicevamo, a proposito, non ci sono più le mezze stagioni, ma questa che stagione è? L'estate sta finendo e un anno se ne va. Colonnello Mario Giuliacci, dacci buone notizie e dici che l'estate, cioè dopo una primavera così piovosa, durante la quale continuavamo a chiederti, ma arriverà l'estate, arriverà il sole? Adesso se ne va così velocemente, proprio la chitichè. Capisco che settembre, metà settembre, insomma, già siamo un po' verso il punto estremo, però che dici? Nutriamo qualche speranza? Ciao Roberta, sì, ciao. Bene, e diciamo che tutto sommato l'estate un po' l'abbiamo vista, perché agosto, anzi, stato rovente, ma rovente con il bel tempo. Insomma, ah, chi sì, voleva bel sì, tempo, quello, non ci possiamo la lamentare dose di bel tempo. L'autunno è iniziato. Autunno significa che il bel tempo ci viene elargito diciamo, con avarizia, e quindi adesso siamo in una fase piovosa, e questa fase piovosa probabilmente ce la porteremo avanti ancora per altri 4-5 giorni, soprattutto al sud. Beh, tanto oggi però e domani il maltempo riguarda gran parte dell'Italia. In questo nel pomeriggio pioverà sul Piemonte, Lombardia, Liguria, la regione appenninica, il sud delle isole. Domani ancora pioverà sull'Emilia e su tutto il centro-sud, e poi pioverà soprattutto al sud fino al 24-25 di questo mese. Voglio dire, insomma, come vedi, l'autunno fa sul serio quest'anno. Torneremo, ma l'estate ritorna, ma se per estate intendiamo un periodo ininterrotto di 7, 10, 12 giorni col sole pieno, sì, proprio così, proprio così la vogliamo, con temperature superiori a 30-32 gradi, questo sarà impossibile. Ma avere 2-3 giorni consecutivi di bel tempo, di sereno su tutta l'Italia, con temperature di 30 gradi, questo è ancora possibile. Probabilmente non più in settembre, è probabile ormai in agosto prossimo, perché settembre ormai è compromesso per 10-15 giorni, a mio giudizio. È andato. E quindi ottobre possiamo sperare allora ancora un po' di bel tempo. Diciamo sì, io ti do una chance per ottobre, di più ormai di più non posso offrire. Resistiamo fino a ottobre, in fondo, sapendo che settembre è un po' così cos'ha, ma a ottobre ci sarà un tempo migliore, nonostante ci inoltriamo sempre più verso l'autunno e poi l'inverno. Vabbè, accontentiamoci. Non dimentichiamo le famose ottobrate romane. Spero che siano anche milanesi e napoletani. Che siano anche milanesi, perché no? Grazie caro colonnello. Ciao Roberta, ciao. Comunque, tutti, un fine settimana solare comunque a te, qualsiasi, ovunque la nuvoletta ti possa seguire. Invece poi c'è sempre il numero verde 800 24 0024. Intanto Carlo Martire già si è preso il keyway, perché dice qui insomma le nuvole cominciano a vedersi fuori dal finetto. Hai avvistato qualche nuvolone? Sì, però, ma io per la verità l'ho preso per le tasche, perché siccome ho tanti oggetti che mi porto dietro, ho bisogno di tasche. Giusto, sì. E il borsetto non si usa più, No, qualcosa così. Semmai uno zainetto. Uno zainetto. Una cosa così, no, ma sei venuto in moto tu? No, sono venuto in metropolitana. Giusto, il metropolitano mi ha detto che sei. Gaspare da Bergamo, al numero verde 800 24 0024. Prego, Gaspare. Pronto, sono in linea? Sì, sì. Buongiorno, in linea perfetta. Io sono molto preoccupato per il tempo, ma non tanto quello atmosferico, quello politico che si respira in questo paese. Le temperie politiche, sì. Oh yes, le spiego, il signor Brunetta non perde occasione per così vomitare delle cavolate attorno su questi impiegati, su questi parassiti, su questa sinistra eccetera eccetera. Io comunque chiamavo per un'altra cosa, per il fatto che un altro della cosiddetta maggioranza, il leghista Alderoli qui a Ponderanica in provincia di Bergamo, si è permesso di togliere la targa che 2 anni fa avevamo intitolato a Peppino Impastato. Ne abbiamo parlato settimana prossima, sì, settimana scorsa, era settimana scorsa la notizia, sì, ne ho parlato settimana scorsa. Ecco, bene. Sì, sì. Niente, ci sarà una grande manifestazione. Quando? Il 26 alle 2:30. E Giovanni sarà invece, il fratello di Peppino, sarà invece nella mia scuola, che è Litis Paleocapa di Bergamo, alle 12, a presentare il suo libro, che sono due cose completamente separate, che si chiama Resistere a Mafiopoli. Gaspar, quindi ci dai una notizia, ma si è previsto quante persone potrebbero partecipare il 26? Guarda, io so poi a Ponderanica ci sono dei pullman che partono addirittura dalla Sicilia, dai castelli romani, spero portino anche un po' di vino. Deve essere anche una grande festa, perché voglio dire, contro la stupidità a volte bisogna reagire con un po' di ironia, spiritose e festose. Gaspar, allora facciamo così, chiama anche settimana prossima, sabato prossimo, mi fai sapere, ci fai sapere com'è andata. Cos'è sabato prossimo? In piena manifestazione, ecco appunto, sì, ecco, potrebbe essere. Allora. Va bene, ti grazie, aspetto allora. Grazie Gaspare. Grazie. E sapete che a un certo punto viene in mente anche il termine, la parola, un'espressione che in qualche modo può avere caratterizzato la settimana, o che è saltata fuori quella. Vi dico la verità, vi dico molto onestamente. Io avrei voluto chiedere del significato che oggi si dà, forse a volte abusato, oppure malinteso, oppure chi lo sa, retorico, non so, della parola eroe alla nostra Valeria della Valle della Sapienza di Roma. Però ho preferito per questa volta lasciar stare, anche se sarebbe stato interessante. Comunque, invece ti dico cara Valeria, ciao intanto. Buongiorno, ecco. Valeria, che è ricorso pochi giorni fa l'anniversario, terzo anniversario della morte di Oriana Fallaci, e si è visto in televisione, ho visto in televisione la sua lapide nel cimitero degli Allori di Firenze. C'era scritto Oriana Fallaci, scrittore. Ecco, tu sai che io sono molto sensibile a questa storia del declinare, del coniugare, come si dice, insomma, comunque al femminile, i termini che sono attribuiti a delle donne, non sempre passare con i termini maschili, soprattutto le professioni, perché come se fossero comunque di diritto maschile, con le gentile concessione al femminile, anche perché sarebbero più prestigiosi al maschile che non al femminile, insomma la solita asimmetria semantica anche nel linguaggio, no? Che dici? Dico intanto che, come sai, sono molto sensibile anch'io all'argomento, e avevo notato anch'io questa lapide quando si è vista, e mi serve per fare alcune riflessioni. Ci sono delle donne che quando si tratta della definizione del loro mestiere, direi soprattutto quando è un mestiere intellettuale, preferiscono essere definite con quel nome declinato al maschile, e quindi scrittore. Così come lo stesso discorso ho sentito fare spesso da poetesse che rifiutano il termine poetessa e preferiscono essere dette poeta. Intanto allora vorrei fare il solito discorso, ma proprio due parole, per dire che, tra l'altro, se è vero che molti mestieri femminili trovano la difficoltà a essere declinati al femminile perché sono recenti, questo certo non vale né per poetessa né per scrittrice, perché poetessa è un termine, non solo le poetesse esistono per fortuna da epoca antica, da Saffo e anche prima, ecco, addirittura lo abbiamo attestato fin dal 1333, e anche scrittrice è una parola che ha già delle attestazioni. Tra l'altro, se andiamo a guardare sul dizionario del Tommaseo, che tra l'altro era particolarmente misogino e non perdeva occasione per ironizzare sulle donne, lui registrava la parola scrittrice, anche se poi diceva che in realtà Santa Caterina da Siena va considerata uno scrittore. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che questo argomento, quello dell'uso dei nomi dei mestieri al femminile, non lo si può decidere dall'alto, insomma non lo può fare nessuna accademia, nessun linguista, e quindi solo il tempo le consuetudini diranno se si può usare o se vogliamo usare chirurga, architetta, io lo uso, magistrata, ministra, avvocata, certo, sindaca, anche perché la lingua non è quella di Dante che parliamo oggi, si è evoluta e continuerà a evolversi a seconda di come cambia la società. Senza neanche andare a cercare questioni del genere, sono grammaticalmente del tutto regolari, ecco, questi nomi, non certo, hanno niente che vada contro la grammatica. Allora, per chiudere con il solito fervorino finale, ho pensato a questo, perché oggi, ecco, ci sono tante opposizioni per qualcosa che in realtà poi non ha nulla di male, neanche da un punto di vista linguistico e grammaticale, ma forse, visto che viviamo in un'epoca così sregolata, anche eticamente, anche per quello che dicevate prima, molti, a cominciare talvolta dalle donne, finiscono per aggrapparsi in maniera un po' rigida alle regole, magari alle regole della grammatica. Ecco, che appunto, come dicevi, però sono legittime però anche in questo senso. Caso non hanno nessun motivo diktat di esistere, perché quelle parole che ho citato sono del tutto legittime, registrate oramai da decenni in tutti i vocabolari della lingua italiana. Grazie Valeria Della Valle, sempre la nostra validissima e bravissima linguista della Sapienza di Roma. Valeria, buon fine settimana anche a te. Grazie, arrivederci. Ciao cara. 32 secondi, caro Romartire, se vuoi dire qualcosa in conclusione complessivamente di quello che ti viene in mente in questo momento, proprio 32. Ma che probabilmente le mezze stagioni ci sono ancora, invece non vorrei contraddire. A proposito di cosa dice Giuliacci? Sì, infatti, esattamente, a proposito, anche perché adesso ci aspettiamo, oltre dopo ottobre ci aspettiamo l'estate di San Martino, o come la chiamano gli americani, l'Indian Summer, l'estate indiana, quindi che continua a venire nonostante i mutamenti climatici. Speriamo che continui a venire a lungo. Quindi forse non ci sono più le mezze stagioni, soltanto per il riferimento politico che ho fatto all'inizio. È molto interessante questa cosa, mi ha molto divertita, e magari ci torneremo prossimamente. Grazie a Carlo Maria Lomartire. Grazie a voi. Ricordiamo Comandante, la biografia di Achille Lauro. Roberta Giordano aspetta sabato prossimo, intanto vi augura dei sereni orizzonti.